Italia in controluce. Buon pomeriggio qui da Roma. Oggi parliamo di sigarette elettroniche perché il Consiglio Superiore di Sanità si sta accingendo a vietarle nei luoghi pubblici. E allora vogliamo sapere che cosa ne pensate. Ricordiamo il numero dei nostri SMS 349-238-6666. E per parlare anche e capirne un pochino di più, abbiamo con noi un collega, Cosimo Colasanto di Salute 24, autore del libro Come smettere di fumare con la sigaretta elettronica, editori internazionali riuniti. Buon pomeriggio Cosimo. Buon pomeriggio agli ascoltatori. Allora, la domanda te la poniamo subito anche a te. È giusto vietare le sigarette elettroniche nei luoghi pubblici? C'è rischio per chi è accanto a una persona che sta fumando una sigaretta elettronica come nel fumo, come chi fuma una sigaretta normale? Beh, allora, diciamo che sicuramente per gli svapatori la vita diventa sempre un po' più difficile, ma in realtà noi ci sbilanciamo sicuramente, quasi sicuramente il Consiglio Superiore di Sanità seguirà la strada che in Francia hanno seguito pochi giorni fa, è stata annunciata dal Ministro della Salute francese Marisol Touraine, di vietare appunto. Eccoci. In realtà diciamo che questo divieto è già nei fatti presente, perché in Italia le sigarette elettroniche contenenti nicotina sono già soggette alla legge Sirchia, quindi alla legge che vieta il fumo sostanzialmente nei luoghi pubblici, che è la legge appunto del 2003 sulla tutela della salute del non fumatore, nella quale si disponeva il divieto di fumo, quindi il divieto si applica per tutte le sostanze che sono emesse in un ambiente chiuso. Fa male? Non fa male? Questo ancora non lo sappiamo, ci sono diversi studi scientifici che stanno in qualche modo analizzando nel dettaglio cosa avviene ad esempio nel fumo o nel vapore, diciamo, passivo, perché ovviamente non si può costringere qualcuno che è in un ambiente chiuso con noi, sia un ufficio pubblico, respirare qualcosa che non vuole, anche se c'è una notevole distanza tra il fumo della sigaretta, quella vecchia come la chiamano gli svapatori, la catramosa, quella analogica, e la sigaretta elettronica. Ecco, ma Cosimo, tu hai scritto questo libro, Come smettere di fumare con la sigaretta elettronica, però la gente veramente smette di fumare o poi la sigaretta elettronica diventa una sigaretta in più? Cioè magari le persone iniziano con seria intenzione di smettere e poi piano piano alternano i due tipi di fumo, quindi sostanzialmente siccome la nicotina si continua ad assimilare, alla fine poi non si smette più. Sì, in effetti questo potrebbe essere il rischio, nel senso che la sigaretta elettronica può essere in realtà un surrogato. L'idea all'inizio erronea era quella di pensare che la sigaretta elettronica fosse in qualche modo il mezzo per continuare a fumare anche appunto nei luoghi in cui non si poteva utilizzare la vecchia bionda, ma effettivamente c'è un potenziale nella sigaretta elettronica, molti lo stanno indagando, soprattutto legato al fatto che c'è una maggiore consapevolezza del fatto che comunque il fumo fa male. Secondo l'orientamento attuale è che la sigaretta elettronica faccia male fino a mille volte meno rispetto alla sigaretta normale. Certo, tra una passeggiata in montagna e fumare sia la sigaretta elettronica sia la sigaretta tradizionale, comunque conviene fare una passeggiata in montagna. Per chi in qualche modo non riesce a smettere completamente dal fumo, o per chi si stanno facendo studi in questo senso, ha necessità, perché ha problemi che sono legati comunque a patologie croniche o a eventi, diciamo, di salute piuttosto importanti, la sigaretta elettronica può essere, anche quella senza nicotina, anzi soprattutto quella senza nicotina, può essere, come dire, un ausilio, perché mantiene la ritualità del gesto, che tra l'altro è una componente della dipendenza dal fumo piuttosto forte, diminuendo in maniera molto drastica, come dire, le sostanze tossiche e cancerogene che invece si assorbono con la sigaretta normale. Allora, guarda, abbiamo già alcuni nostri radioascoltatori che sono molto divertenti. Allora, intanto invece Marco ci dice che lui è riuscito a smettere di fumare perché si rollava sigarette giornaliere e ogni mese calavo di una implementando con la e-pipe, che penso che sia la sigaretta elettronica, giusto? Sì. Che se, beh, allora, salve, invece Andrea, non fumatore, molto divertente di Bologna, dice Humphrey Bogart ne sarebbe felice perché l'iconografia va salvato, le sigarette elettroniche sono orribili e posso dire è vero, però È magari non vero. hanno il brutto sapore che lascia il fumo. Poi invece un altro radioascoltatore che non si firmava molto divertente che dice solo a vietare sono capaci, a questo punto bisogna anche vietare di respirare perché si emette vapore. Gestisco una sala giochi, ci dice Antonio, i bulletti fumano tutti la sigaretta elettronica, io credo che vada proibita. E un altro invece ci dice da Milano, è una priorità importante per l'Italia di oggi, al Tribunale di Napoli fumano persino i carabinieri. Ecco, vabbè, insomma, ovviamente è un argomento leggero, abbiamo scelto per questa puntata, no? Se vietare o no il fumo di sigarette elettroniche. Ecco, Cosimo, ti posso chiedere una domanda personale, cioè se sei un fumatore, se hai mai provato la sigaretta elettronica, perché io per esempio ho smesso di fumare molto tempo fa e non l'ho mai provata, nemmeno la sigaretta elettronica. E che cosa si prova? Che cosa succede? Guarda, io allora sono un ex fumatore, ma non ero dei tabagisti, diciamo, incalliti o disperati, nel senso che fumavo qualche sigaretta in compagnia un po' di anni fa e ho smesso naturalmente. Il mio caso è stato più con una moglie elettronica che con una sigaretta elettronica, perché mia moglie, quando già era fidanzata, detestava il fumo. Io per amore, diciamo, ho smesso di fumare anche quelle poche sigarette che fumavo durante il giorno. Diciamo che è uno dei motivi per cui si smette di fumare se ci si riesce, e mentre la sigaretta elettronica, diciamo, io l'ho provata durante la scrittura, diciamo, del libro di come smettere di fumare con la sigaretta elettronica, perché volevo in qualche modo capire quale differenza ci fosse. È sicuramente un modo diverso di fumare, nel senso che è veramente quello che potremmo dire un po' l'iPhone, comunque i tablet sono stati nel mondo di internet e comunque della comunicazione a distanza, lo è nel mondo, diciamo, del tabagismo, di chi fuma. È un modo diverso perché comunque anche con l'introduzione di tanti aromi, perché ormai se ne trovano veramente di tutti i gusti, Sì, sembra dalla tipo un frutta, espresso, no? Tipo, dall'espresso, cappuccino, liquirizia. capito? Oppure che ne so, tutte le grandi marche adesso, no, che fanno di tutti questi caffè aromatizzati. E questo sembra un po' la sigaretta elettronica, ecco. Sì, in effetti c'è stata, come dire, perciò è diventato anche, come dire, un argomento molto di moda, perché ha anche questo lato, diciamo, di costume e di colore molto simpatico, perché comunque con gli aromi si può fare qualsiasi cosa, anche dei mini cocktail mettendo insieme. Certo, questo non è mai consigliato, perché comunque alla fine può diventare suggestivo soprattutto per le fasce di età più giovani, e questo, insomma, è quello che si vuole evitare, cioè che la sigaretta elettronica diventi un metodo per attrarre le generazioni più giovani, anche se poi alla fine, se c'è il brivido della trasgressione, va sempre verso la sigaretta, quella tradizionale, e quindi il rischio è ancora più grande. Diciamo che il sapore di solito è più dolciastro, perché le nuvole sono prodotte con degli additivi alimentari che sono diciamo, simili a degli oli che si vaporizzano, nei quali appunto è miscelata la nicotina, quando è presente, perché si può anche fumare addirittura soltanto acqua distillata, acqua deionizzata, e ha appunto una nuvola che viene, in realtà ha più un effetto scenico, serve in qualche modo proprio a far scattare quella percezione da parte del fumatore che si stia fumando come appunto si fumava la vecchia sigaretta. Da questo punto c'è una differenza ovviamente anche nell'uso, è uno strumento qualche volta. Può essere un po' effettivamente kitsch nelle forme, e a volte appunto sembra un po' una stilografica, diciamo, un multicolor, a volte esagerata, sta diventando anche uno status symbol, perché comunque c'è tutta una serie di elementi che la circondano. Allora, noi ringraziamo Cosimo Colasanto di Salute 24, autore del libro Come smettere di fumare con la sigaretta elettronica. Ricordiamo, c'è un radioascoltatore che mi ha fatto veramente ridere, allora io scelgo l'aroma polenta. Beh, che dire, a quest'ora assolutamente sì, polenta per tutti, visto che è quasi l'ora, anzi è un pochino passata l'ora di pranzo. Io nel frattempo vi ricordo che il Consiglio Superiore della Sanità probabilmente dovrebbe andare verso il divieto di sigaretta elettronica nei luoghi pubblici. Un saluto da Elisabetta Fiorito.